Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Allora, forse abbandonata sull'altare all'Italia, cercheremo di capirlo, visto le indiscrezioni di stampa di oggi che ipotizzano che possa saltare a sorpresa il matrimonio tra Alitalia e Etihad, un matrimonio in cui la dote la portava Etihad, quindi la compagnia degli Emirati Arabi di Abu Dhabi. Secondo le indiscrezioni, Abu Dhabi non avrebbe avuto abbastanza garanzie sufficienti dal governo italiano e dagli azionisti soprattutto. Nel caso specifico le garanzie richieste riguarderebbero le rotte da Linate. Sappiamo che nel piano di Etihad all'Italia avrebbe dovuto potenziare le rotte da Linate, i collegamenti con l'alta velocità per l'hub di Fiumicino. Anche qui Etihad vorrebbe trasformare Fiumicino nel suo hub per i voli verso il nord e il centro e Sud America, mentre da Abu Dhabi transiterebbero tutti i voli verso l'Asia e chiaramente Asia e sud-est asiatico, usando quel punto, da quello che abbiamo capito, sia Fiumicino ma anche soprattutto Linate come scalo di smistamento verso Abu Dhabi, né sugli esuberi almeno 3.000. Né per quanto riguarda l'abbattimento dei debiti da parte delle banche. Insomma, la situazione si è complicata moltissimo, anche se oggi il presidente della Regione Lombardia Maroni in un tweet ha detto: ho sentito il ministro Lupi, a lui non risulta nessuna rottura nella trattativa tra l'Italia e Etihad. Di questo parleremo, così come parleremo del DEF. Cos'è il DEF, il documento economico finanziario? Perché? Perché il Senato ha dato via libera al DEF con 156 sì, 92 no e 2 astenuti. Però domani vi sarà un Consiglio dei Ministri che dovrà definire con maggior dettaglio come avverrà il taglio dell'IRPEF, i famosi 80 euro in busta paga, che in realtà, come ha spiegato bene il Sole 24 Ore, come abbiamo spiegato anche noi, riguardano i redditi, tra il beneficio maggiore per i redditi tra i 19.000 e i 26.000 euro lordi l'anno. Sopra i 28.000 euro lordi l'anno il beneficio si azzera. Il bonus dovrebbe essere esteso anche agli incapienti, quelli che non pagano le tasse, ma in misura minore, circa 40 euro mensili. Domani avremo maggiori dettagli, ma ne parleremo anche oggi, sul meccanismo e quindi le modalità, ma anche le coperture, perché da quello che ci risulta la maggior parte delle risorse dovrebbero arrivare dalla spending review e per un miliardo, quindi dal taglio della spesa pubblica, e per un miliardo vicino, per un miliardo, scusatemi, dall'aumento dell'aliquota per le quote delle banche in Banca Italia, dovrebbe passare al 20%. Potrebbero essere recuperati anche 300 milioni della lotta all'evasione. Però il fonte di Palazzo Chigi oggi hanno smentito l'ipotesi di interventi sulle detrazioni, quindi riduzione delle detrazioni per finanziare l'IRPEF. Su molti quotidiani si ipotizzava una riduzione delle spese detraibili, spese sanitarie, interessi sui mutui, polizze assicurative, per i redditi sopra i 55.000 euro l'anno. Chiaro che se dovesse, ripeto, fonti di Palazzo Chigi smentiscono questa ipotesi, se dovesse invece essere vera, ridurrebbe di molto, per essere buoni, l'impatto degli 80 euro, non per altro, perché andrebbero a vantaggio di alcune categorie, ma vorrebbe dire che di fatto, a fronte di una riduzione fiscale per alcuni redditi, vai ad aumentare la pressione fiscale per altri. E faccio notare che sopra i 55.000 euro vuol dire anche redditi da 60.000 a 65.000 euro lordi l'anno, che per carità non sono reddite, ma non sono nemmeno, diciamo, dei redditi così di lusso da dire che sguazzi nel denaro con 60.000 euro lordi l'anno, magari con i figli a carico e quant'altro. Per cui staremo a vedere. È smentita, viene confermata invece la smentita di ieri di agganciare il canone RAI alla bolletta elettrica. 349-238-6666 per i vostri sms. Poi parleremo anche del mercato auto, nuovo calo come quota per Fiat, che viene superata anche da BMW. Ora è chiaro che non è che improvvisamente gli italiani, con il crollo dei consumi e con il potere d'acquisto ai minimi, si sono messi a comprare BMW, però questo vuol dire che c'è un problema nelle vendite Fiat, l'abbiamo ricordato più volte, mancano banalmente i modelli nuovi. Dicevo, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Il progresso dell'economia americana, anche oggi un dato, i disoccupati, quelli misurati ogni settimana, sono vicini ai minimi dal 2007. Alcuni mi dicono: ma lei ripete spesso le stesse cose. Sì, perché mi dispiace, finché non cambio idea continuo a ripetere le stesse cose. L'America ha scelto una politica di rilancio dell'economia attraverso lo stampaggio di dollari, il quantitative easing, i tassi bassi, se n'è fregata del deficit, ha creato posti di lavoro e questi sono i risultati. E tra l'altro dall'America arriva anche un altro buon bilancio per una delle banche principali, delle banche d'affari principali, è buono, anche se è il peggiore dal punto di vista del raffronto dai tempi del crack Lehman, perché Goldman Sachs ha visto scendere l'utile a 2 miliardi di dollari. Il risultato è migliore delle previsioni, ma ripeto, è una trimestrale, se confrontata con quelle precedenti, bassa. Andiamo all'Europa. C'è una nota importante, perché nella retorica di chi confonde la gestione dell'euro, pessima in questi 2-3 anni, con l'euro stesso, e come diciamo spesso confonde la febbre con il termometro, e c'è tutta una così una demagogia: usciamo dall'euro, staremo meglio, venderemo di più, poi chi se ne frega di quello che capiterà ai mutui, ai tassi di interesse, al pubblico che deve licenziare, al blocco dei conti correnti, tutte cose che abbiamo già visto in Argentina, che abbiamo già visto quando la lira fu cacciata dallo SME. Ricordo che i bot arrivarono al 15% di rendimento, no, lo dico così per memoria storica, e nell'ipotesi che inizieremmo a esportare di più, come se noi potessimo far concorrenza alla Cina. Faccio presente che in questo momento in Italia il problema non sono le esportazioni, anche se l'euro è troppo forte, 1,38, ma non è che possiamo da soli abbassarlo. L'unico problema che non abbiamo sono le esportazioni, perché le nostre imprese, quelle internazionalizzate, si sono già spostate sulla fascia alta. È inutile immaginare che con una liretta potremmo avere un costo del lavoro concorrenziale con quello cinese, indiano, indonesiano. Sono balle che però capisco che vadano a prendere la pancia. Dicevo, in tutta questa retorica anti-euro spesso vengono citati alcuni premi Nobel. Ora faccio notare che i due premi Nobel per l'economia, l'indiano Amartya Sen e lo statunitense Joseph Stiglitz, hanno precisato le loro posizioni e preso nettamente le distanze da quella che definiscono una strumentalizzazione delle loro analisi, lo dico anche a chi ogni tanto si diletta a scrivere su Facebook, sui messaggi, da parte di alcuni politici in Francia e in Europa. Scrivono i due premi Nobel: siamo decisamente a favore di un'Europa più unita e chiediamo molto di più di una semplice unione monetaria. Siamo molto turbati dall'apprendere che in alcune dichiarazioni politiche le nostre analisi sul funzionamento dell'euro sono state travisate. Ripeto, premio Nobel Joseph Stiglitz e premio Nobel Amartya Sen. Noi sosteniamo, continuano i due, che l'unione monetaria deve procedere di pari passo con l'unione di bilancio e l'unione bancaria, e auspichiamo che questo si realizzi nei tempi previsti. Restiamo pro-europeisti piuttosto che anti-europeisti. Loro vogliono che non ci sia solo l'euro, ma anche l'unione bancaria e l'unione di bilancio, che è una cosa ben diversa da chiedere l'uscita di un paese dall'euro. Questa è bellissima: con la lira costerebbe tutto la metà, quindi esportiamo di più. Ma cosa sta dicendo? Cosa sta dicendo? Il prezzo della benzina raddoppierebbe, se immaginiamo una nuova lira che valga la metà. Tutti i generi che importiamo, guardate che non è che siamo in autarchia e mangiamo solo quello che produciamo, al di là della retorica del chilometro zero, ci costerebbe molto di più, l'inflazione crescerebbe. Per evitare la fuga dei capitali, cosa già avvenuta in Argentina, il tesoro sarebbe costretto ad aumentare i rendimenti e per trovare anche i finanziatori per il nostro debito. I tassi aumenterebbero i mutui, soprattutto se guardiamo l'esempio argentino, dovresti obbligare a sostanzialmente bloccare il prelievo dei conti correnti, anche perché, voglio dire, sappiamo che chi ha i risparmi e i soldi, dovessimo uscire dall'euro, si attrezzerebbe a portarli fuori, come già avvenuto nei periodi in cui c'era la fuga dei capitali dall'Italia. Su. Ancora per quello che riguarda i qualcuno mi continua a dire della Gran Bretagna. Allora, la Gran Bretagna non ha l'euro e la sterlina si è rafforzata, infatti appunto dopodiché la Gran Bretagna ha una valuta più pesante dell'euro, e se si è ripresa economicamente non è perché ha una valuta più forte dell'euro, è perché ha un sistema maggiormente concorrente, più efficiente, dove la burocrazia funziona, dove la spesa pubblica è meno improduttiva, dove è più facile licenziare e assumere, dove prevale il merito, è tutto un insieme di cose, dove c'è concorrenza interna nei servizi. Questi sono i motivi per cui la Gran Bretagna poi resta, e Londra soprattutto, il miglior posto dove spostare un'attività finanziaria, e una tassazione anche più bassa, se vogliamo dirla proprio tutta. Vabbè, spostiamoci all'Italia, perché mentre il Centro Studi Confindustria segnala un grave rischio, lo spettro della deflazione che aleggia sulla nostra economia, devo dire che è un rischio che intravede in maniera molto forte anche il Fondo Monetario e la Banca Centrale Europea, i prezzi in calo, sostiene il Centro Studi Confindustria che, se si tiene conto della distorsione verso l'alto della misurazione dei prezzi, una distorsione statistica, in realtà noi siamo già in inflazione negativa, e chiede un rapido intervento della Banca Centrale Europea come unico rimedio e in linea con il suo mandato. Dicevo, mentre c'è questa nuova preoccupazione sulla deflazione avanzata dal Centro Studi Confindustria, oggi la raccolta del BTP Italia, nella parte riservata agli istituzionali, ha raccolto 10 miliardi e mezzo. Praticamente, sommati ai 10 miliardi richiesti nei giorni scorsi, il boom di domanda è pari a 20 miliardi, oltre 20 miliardi. Una cosa che riguarda il DEF approvato, che a mio avviso è molto interessante, perché il Senato l'ha approvato, ma ha approvato anche con il voto della Lega, e questo mi sembra di rilievo anche politico, la possibilità, l'autorizzazione al governo, la maggioranza era veramente alta, 170 a favore e 87 contrari, dicevo, l'autorizzazione al governo a fare slittare il pareggio di bilancio al 2016. Noi avevamo promesso che avremmo avuto un deficit zero entro il 2015. È importante perché è un primo mandato al governo per andare in Europa a dire: noi facciamo le riforme, voi abbiate pazienza, non ci rompete se volete le scatole, anche se il pareggio di bilancio lo facciamo nel 2016, non nel 2015, non cambia niente, ma bisogna far ripartire l'economia attraverso le riforme, ma senza essere strangolati da questa ossessione psichica, o meglio da psicanalisi, del deficit allo zero entro il 2016. E ripeto, anche con i voti della Lega. Il ministro Padoan stima comunque che, dopo aver confermato il rinvio del pareggio di bilancio al 2016, strutturale, quindi senza gli effetti del ciclo economico, dice: attenzione, il disavanzo strutturale ricomincerebbe a diminuire di 0,5 punti dal 2015. Il gap tra la crescita osservata e quella potenziale ha fatto registrare valori particolarmente negativi. Secondo le previsioni invernali della Commissione europea, il gap è stato pari al 4,3% del prodotto potenziale del 2013. Nonostante i segnali di ripresa delineatesi già nell'anno in corso, anche nel 2014 il gap rimarrà particolarmente negativo e al di sotto del livello rappresentativo. Il Governo ritiene che le condizioni macroeconomiche e finanziarie richiedano di riconsiderare il profilo dell'avvicinamento all'obiettivo di medio termine, rappresentato dal pareggio di bilancio in termini strutturali. Il governo ha già spiegato nei dettagli e con un cronoprogramma ben preciso come intende fare fronte al perdurare delle condizioni cicliche avverse attraverso azioni di stimolo a breve termine, come il pagamento dei debiti residui da parte della pubblica amministrazione e con riforme strutturali. Allora, veniamo al Jobs Act, perché la Commissione Lavoro del Senato ha preso tempo sul disegno di legge contro le dimissioni in bianco, quello approvato dalla Camera, perché l'organismo parlamentare, che è presieduto da Maurizio Sacconi, da sempre contrario al provvedimento, l'abbiamo avuto anche ospite al Jobs Act, ha votato affinché il testo venga discusso insieme alla delega al governo sul lavoro, quindi complessivamente verrà discusso con il Jobs Act. Perché questo? Perché c'è questa norma sulle dimissioni in bianco che è fortemente contestata. Ancora, per quello che riguarda le banche invece, oggi vi vorrei far ascoltare un passaggio dell'intervento del presidente dell'ABI, questa mattina ospite di Giovanni Minoli, Mix 24, su Radio 24, in merito all'ipotesi di costituire anche in Italia una bad bank, ossia una banca in cui tutte le sofferenze, cioè i crediti che le banche non riescono più a riscuotere o difficilmente riscuoteranno, vengano lì collocati. Sarebbe utile, ma promossa dal governo, che ci dovrebbe mettere, come negli altri paesi dell'Occidente, qualche risorsa o qualche incentivo fiscale. La cosa che bisogna evitare è realizzare una bad bank carrozzone o una costrizione per altri, che sia una sovrastruttura. Le bad bank, sì, o banks, sì, in Occidente, laddove vengono promosse dallo Stato, e di conseguenza la domanda non va posta a me, va apposta a chi ha le responsabilità del governo della Repubblica. Se viene istituita anche in Italia una bad bank, penso che le banche siano più che disponibili a collaborarvi, ma le banche oggi sono ognuna per se stessa, anche delle bad banks, perché gestiscono questi crediti inesigibili, crediti difficilmente esigibili. Per superare il check-up della BCE sullo stato di salute delle banche, la bad bank è uno strumento oppure no? Penso che le banche italiane, che in larga parte stanno facendo degli ampissimi aumenti di capitale, anche con questi sono pronti a superare gli esami della BCE. Poi, chiaramente, se viene fatta, ma velocemente, una bad bank con una contribuzione da parte dello Stato, che però io non la vedo vicina, certo, per essere precisi, che sia assolutamente benedetta. Allora, vedo che c'è chi non si arrende, un ascoltatore mi dice: lei è fazioso, da fare schifo, si vergogni, Stiglitz ha sempre criticato l'euro. Oh, andatevi a leggere quello che ha detto Stiglitz nella lettera con Amartya Sen, noi riportiamo la notizia. A chi mi dice, immagino non sia il 2081 ma il 1981, avevamo i bot al 20% eppure eravamo più ricchi, allora anche lì. Due considerazioni, poi passiamo oltre. La prima: è sicuramente vero che negli anni 90 fosse un'età dell'oro e anche fine anni 80 rispetto ad adesso. C'è un piccolo dettaglio: non si erano affacciate sul mercato, poi possiamo ragionare se sia stato un bene o un male farle entrare così rapidamente. Paesi come la Cina, l'India, l'Indonesia, e vado avanti con quello che è successo in Brasile. Quindi è vero, noi eravamo la manifattura d'Europa, il mercato lo si giocava tra Europa, Stati Uniti, Australia e Canada, cioè paesi OCSE, e lì era finita. Non c'erano 1,5 miliardi di cinesi o 2 miliardi, se mettiamo assieme anche gli indiani, a chiedere di diventare classe media. Faccio presente che ormai in Cina ci sono 250 milioni di cinesi che hanno un potere d'acquisto simile alla classe media europea. Allora, quello era un altro mondo. Uno può rimpiangere quel mondo, ci può anche stare, ma non può immaginare che la storia ritorni. Se no fai la figura di certi personaggi, ogni tanto lo diciamo, di certi cinquantenni che vanno in discoteca con i jeans rossi, sono patetici. Cosa ti immagini di tornare agli anni 80, agli anni 90? E faccio anche notare che con i bot al 20% ti sentivi ricco, perché è chiaro che mettevi tutti i risparmi nei bot, ma il tuo debito continuava a salire e poi ce lo siamo beccati come il debito migliore, migliore nel senso di più alto a livello europeo e anche a livello mondiale. Lei ha paura di confrontarsi con un economista anti-euro? Uno solo giusto per par condicio lo conosce, o a par condicio se applica la politica. Economisti anti-euro, o meglio, persone anti-euro che siano economisti seri, non ne conosco, va bene? Tutti gli altri mi sembrano così, apprendisti stregoni. Ci sono tanti programmi in giro che fanno dell'essere anti-euro la logica editoriale, così, per colpire la pancia. Qual è il problema? Non è che siamo obbligati a portare per forza l'ipotesi, qualunque ipotesi, in trasmissione. Abbiamo avuto tutti gli economisti teorici della decrescita, dalla Tuscia agli altri, quando venivano a raccontarci che il PIL deve calare, che si può avere una decrescita felice. Non sono d'accordo, ma li abbiamo avuti, ma c'era un approccio economico. Gli apprendisti stregoni? No, grazie. Allora, il caso Concordia. Per lo smantellamento del rito della Concordia ci sono due soluzioni a questo punto, una turca, l'altra italiana. Il problema è che Ankara ha presentato l'offerta più conveniente, 40 milioni di dollari contro i 200 milioni, definita da molti fuori mercato, di Civitavecchia. Il capo della protezione civile, Franco Gabrielli, in audizione alla Commissione Ambientale della Camera, ha spiegato che in mezzo ci sono le soluzioni a metà tra quella turca e quella di Civitavecchia, di Piombino e Genova. Il presidente della regione Toscana oggi, intervenuto a Effetto Giorno con Simone Spezia, Radio 24, ha detto: il porto di Piombino è pronto a settembre, sono sereno, siamo sereni, comunque l'investimento l'abbiamo fatto. Penso che è giusto che si valuti allora meglio le due ipotesi, che sono Genova e Piombino, che mi sembra dal punto di vista economico hanno lo stesso valore. Io ho sempre detto che se saremo pronti per quando la nave verrà trasportata, è giusto che sia Piombino la sede naturale, anche perché per portarla a Genova occorrono 4-5 giorni e a Piombino ci si porta in un giorno solo. Chiunque può capire che trascinare un relitto in mare, insomma, non è proprio un'operazione semplice. Il porto di Piombino da questo punto di vista va attrezzato. Come è messo dal punto di vista dei tempi? Entro quanto può essere pronto? A settembre, mi dicono, io sono una sorta di super commissario di questa vicenda, anche ieri sera venivo informato dall'autorità portuale che entro settembre ci sono le condizioni per far entrare la nave dentro il porto. Se i lavori andranno avanti a questo ritmo molto accelerato come stanno andando avanti, si lavora anche di notte. In ogni caso il porto servirà per tante altre cose che sono quelle dello sviluppo industriale, di un centro comunque di rottamazione che lì vogliamo fare, e quindi sono investimenti comunque ben fatti. Io sono sereno, ho interesse come Presidente della Regione Toscana che la nave sia portata via dal Giglio, sia portata via nelle migliori condizioni di sicurezza e di impatto ambientale, e poi naturalmente che la nave sia smaltita nel nostro paese mi sembra più che ragionevole, e se saremo pronti a parità di costi non vedo perché non si deve fare nel porto più vicino, che appunto è Piombino. E se riusciremo a portarla via, a chiudere i lavori entro settembre, la nave non sarà ancora pronta. Tra l'altro a Giglio sostengono giustamente che non vogliono che d'estate, insomma, un'operazione di sollevamento e tutte le operazioni che lì devono essere fatte vadano a turbare la stagione estiva. Certo. Adesso c'è la pubblicità e il meteo, poi racconteremo anche del bilancio del comune di Roma Capitale, perché insomma altri 60 milioni di euro di debito, di spese senza copertura, nonostante il taglio delle uscite, delle spese da 2 miliardi a 1 miliardo e mezzo, la dice lunga sul caos di sto bilancio del comune di Roma. E poi ci sono anche cose carine, perché sono Vabbè, l'autista dell'ATAC che risultava malato ma faceva il cantante, denunciato, ci mancherebbe. Non so se l'abbiamo denunciato per come cantava o perché era malato. Devo dare una, leggere un messaggio però sulla mia battuta sui cinquantenni che vanno con i jeans rossi in discoteca. Mi scrive un ascoltatore: Barisoni, va ci piano che oggi sono in giro con i jeans rossi, ho 49 anni, solo che sto montando porte. Lei ha fatto benissimo a montare le porte, ci mancherebbe, non ce l'ho con i jeans rossi, ce l'ho con chi non capisce quando il tempo è passato e continua a, così, a rimpiangere l'età dell'oro. A 7:37 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. No, sorrido perché in questi innamorati dell'uscita dall'euro ci sono dei messaggi deliranti, perché mi scrive un ascoltatore, Massimiliano: i mutui, beh, i tassi sono indicizzati all'Euribor, bene, bene. La benzina al doppio? No, certo che non al doppio, il 30% è petrolio, immaginiamo con 30, se fosse la benzina a 1 euro e 30 centesimi li paghi il doppio, per carità, il doppio era una battuta, immaginiamo un 30% in più, e quindi l'inflazione conseguente, mezzi di trasporto e beni prodotti. L'Argentina, se deve citarla, citi anche il motivo per cui è andata in crisi. L'unico reale e concreto problema sarebbe la speculazione sui conti correnti, l'unico vero reale e concreto problema. Sa cosa vuol dire questo? Vuol dire la fuga dei capitali dai conti correnti, non quando dovesse arrivare la nuova liretta, ma nelle settimane precedenti, perché la gente che ha i soldi nei conti correnti li riporterebbe in Svizzera, in Lussemburgo, nell'area euro. Vorrebbe dire l'obbligo per il tesoro di aumentare i tassi di interesse per trovare finanziatori per il debito pubblico. Vorrebbe dire, visto che lei cita l'Argentina, se lo ricorda il coraglito cos'era? Era il blocco di tutti i conti correnti, non potevi prelevare oltre una certa cifra, ok? Perché sennò scappavano tutti per mettere i soldi dal peso svalutato in dollari, e il governo obbligò a bloccare il prelievo dei conti correnti. Se questo le sembra poco, va bene. Io non lo so. Ma non sarebbe più serio ragionare e chiedere a qualunque governo, governi in Italia, andare in Europa a puntare i piedi, a battere i pugni, dire basta con questo 3%, è importante quello che c'è oggi al Senato, di dare via libera al governo per il pareggio di bilancio 2016. Questa è politica, il resto è demagogia. Per avere un po' di notorietà, per indire guardate che tanto non si devono fare i compiti a casa, non bisogna abbattere la burocrazia improduttiva, non bisogna rendere più meritocratica la pubblica amministrazione introducendo anche i licenziamenti veri per chi non lavora, riducendo lo stipendio dei dirigenti, combattendo l'evasione, riformando la giustizia civile, e prima o poi anche i magistrati, diciamo, qualche tasso di produttività dovranno dimostrarci. Non bisogna mettere in concorrenza i servizi, no. Bisogna uscire dall'euro. Allora, andiamo invece alle notizie di questo bellissimo paese che come unico problema ha l'euro. C'è il conducente che sta al cellulare mentre guida. Parliamo dell'ATAC, che quello che fa entrare la propria fidanzata nella cabina, va bene, quello che ferma il filobus e scende per andare a comprarsi una pizza. C'è anche l'autista canterino. L'ATAC, infatti, tra le sue file anche autisti con ottime doti di cantore. Non perché fischietti mentre guida, ma perché lui era in malattia mentre andava a cantare durante i concerti. Per fortuna è stato sorpreso dai finanzieri di Frascati a cantare di notte in un locale di Zagarolo. Non era un film Ultimo Tango a Zagarolo, una cosa del genere. Mentre su cose un po' più gravi, a Palermo la regione è pronta un avviso per gli under 35, un bando di gara, perché ha bisogno di 20 esperti esterni in comunicazione. Motivo: la costituzione di una shortlist per le attività di divulgazione del piano Giovani Sicilia dell'assessorato regionale alla formazione professionale, piano che vale 452 milioni di euro. Invece di dare gli appalti di comunicazione alle solite società, vogliamo valorizzare le giovani professionalità siciliane, dando un compenso ai giovani under 35. Tutto bene. Però sapete perché si fa un bando esterno? Perché il bando interno del 21 marzo, rivolto a 16.000 dipendenti regionali chiamati anche, gli si chiedeva anche di saper usare Facebook e Twitter, è andato deserto, cioè non si riesce a beccare su 16.000 dipendenti, 16.000 della regione Sicilia, 20 persone che possono essere esperti in comunicazione, ma non per beccare il Pulitzer l'anno prossimo, per divulgare l'attività del Piano Giovani Sicilia. In effetti le richieste erano molto alte, bisognava sapere gestire canali, mi piace la gestione dei canali, di canali come Facebook, Twitter, avere la capacità di andare sui blog, gestire commenti, fare, riuscire a distribuire contenuti, fare l'analisi e il follow up, e tra l'altro adesso le domande saranno valutate da un nucleo di valutazione composto da un dirigente del Dipartimento regionale e da altri due dipendenti del medesimo dipartimento, con inquadramento non inferiore a quello di istruttore direttivo. Il nucleo provvederà a redigere la short list dei soggetti ammessi e poi il dipartimento affiderà degli esperti selezionati inseriti nell'elenco apposito l'incarico di tipo professionale, di prestazione di tipo professionale o di lavoro occasionale, e sarà data la priorità a soggetti che non abbiano superato i 35 anni. Tutta sta roba è colpa dell'euro, no? Allora, ci si è verificato il guasto idraulico nel locale del bar di Montecitorio, neanche ve lo faccio notare, perché una copiosa perdita d'acqua ha allagato il bar di Montecitorio. Molti deputati hanno rimediato chiedendo indicazioni per raggiungere la buvetta del personale e hanno scoperto che i prezzi sono dimezzati. No, vorrei chiudere con una notizia chiaramente che arriva dall'altro mondo, dal Down Under, dall'Australia, perché il premier della regione più importante che c'è in Australia, che è il Nuovo Galles del Sud, New South Wales, si è dimesso, è il governatore del più importante stato australiano, perché ha accettato, non è che l'ha pagata, ha accettato come regalo una bottiglia di vino rosso da 2.000 euro, una marea di soldi, per carità, per una bottiglia di vino rosso. Gliel'aveva regalato l'amministratore delegato di una compagnia interessata a un contratto in esclusiva con l'ente statale. La commissione anticorruzione l'ha beccato, ha detto: tu non puoi ricevere come regalo 2.000 euro di bottiglia da uno con cui dovresti firmare un contratto. Lui si è dimesso. Ma perché non c'è l'euro? La borsa adesso, andiamo a commentare il mercato. Allora, positiva anche se di poco, Piazza Affari più 0,40, Parigi più 0,60, Francoforte più 1%, Londra più 0,60%, Paolo Paronetto, Radio Cori sulle 24 ore, buonasera. Buonasera a tutti. Più 4,80 la Popolare di Milano dopo l'incontro in Banca d'Italia sulla famosa governance. Sì, esattamente, i vertici sono andati in Banca d'Italia per illustrare l'esito dell'assemblea che, ricordiamo, ha bocciato la riforma della governance e aggiornare appunto sulle intenzioni dei consigli di sorveglianza e di gestione. Di fatto Palazzo Coca ha dato via libera alla banca di procedere con l'aumento di capitale nei tempi previsti, quindi la partenza è attesa per il 5 maggio, e inoltre diciamo che BPM è forse un po' più ottimista sulla possibilità che la Banca d'Italia rimuova i requisiti patrimoniali aggiuntivi che ha imposto il BPM, che pesano molto sui coefficienti e patrimoniali della banca, nonostante la bocciatura del progetto di riforma della governance, che originariamente era una delle condizioni appunto poste per la rimozione di questi filtri prudenziali. Il mercato quindi ha apprezzato questa possibilità e il titolo è stato tra i migliori fin dell'avvio di giornata. Ancora per quello che riguarda il Monte dei Paschi, bene, oggi più 2,80%, e domani il Consiglio di Amministrazione che dovrà svelare a sto punto se l'aumento di capitale sarà da 3 o da 5 miliardi di euro? Esattamente, sì, domani c'è il CDA, si attende, ormai quasi tutti danno per scontato l'incremento dell'aumento di capitale fino a 5 miliardi. Il titolo, ricordiamo, aveva perso moltissimo quando erano uscite questa notizia due sedute fa, da allora è parzialmente in recupero, il mercato evidentemente e gli investitori hanno approfittato del calo di due giorni fa per prendere posizioni, contando appunto sulla ristrutturazione della banca, che sarà garantita appunto anche da questo aumento di capitale che sta assumendo dimensioni sempre più imponenti. Il titolo ha guadagnato il 2,5 0,81% e vedremo dopo la pausa pasquale la risposta del mercato all'esito del CDA. Allora, nel frattempo sono arrivati, è arrivato un flash agenzia. Il ministro Lupi conferma che ieri sera è arrivata, che risulta al ministero che ieri sera è arrivata una lettera da Etihad che pone condizioni ad Alitalia a cui i privati devono rispondere. Quindi la lettera c'è, visto che c'era il dubbio che ci fosse, la lettera c'è, e da come la capisco io è un flash d'agenzia. Probabilmente le indiscrezioni della stampa erano corrette. Chiede ai privati soprattutto condizioni, altrimenti salta l'accordo, o meglio l'accordo, salta l'ipotesi di accordo, visto che ancora di firmato non c'è nulla. Poco fa invece Silvio Berlusconi, nel presentare le liste di Forza Italia alle prossime europee, in tema di Europa e euro, dice: attenzione, se non stampiamo moneta facciamo la fine dell'Argentina. Non chiede l'uscita dall'euro, ma chiede, e su questo sono d'accordissimo, di stampare un po' di moneta in modo da creare più liquidità. Ti beccherai un po' di inflazione, ma non mi sembra il pericolo in questo momento, siamo in deflazione, e forse riuscirai anche a abbassare il valore dell'euro, fermo restando che, e lo ricordo a tutti quelli che scrivono, i rapporti di cambio, i rapporti valutari sono un mercato quasi perfetto, nel senso che ci sono migliaia di soggetti, cioè io posso anche vendere 2 milioni di euro per comprare 2 milioni di dollari, ma se nel frattempo in Asia qualcuno vende 2 milioni di dollari per comprare, o vende 3 milioni di dollari per comprare 3 milioni di euro, ho ottenuto niente, cioè ci sono tantissimi soggetti, c'è un incrocio di domanda offerta. Ora, è chiaro che se tu stampi moneta tendi ad abbassare il valore della tua valuta. Continua Berlusconi: capisco bene il terrore dei tedeschi, il terrore che i tedeschi provano per l'inflazione, ricordando la Repubblica di Weimar, ma noi che abbiamo vissuto l'inflazione a due cifre sappiamo che l'economia in quei tempi riusciva a crescere senza sosta. La Banca Centrale Europea deve diventare prestatore in ultima istanza, anche su questo sono d'accordissimo, che possa stampare moneta ed emettere eurobond, anche su questo, cioè, personalmente sono d'accordissimo, cioè la BCE deve diventare una banca centrale come tutte le altre banche centrali al mondo, e comunque l'inflazione a due cifre non sarebbe nell'aria. E ricordo anche a Berlusconi che qui c'è un fraintendimento: Hitler non arrivò per l'eccesso di inflazione in Germania, Hitler arrivò per l'eccesso di disoccupazione. La Germania nel 28 stava già riducendo di molto la sua inflazione, scoppiò la crisi del 29 a livello mondiale, mentre in America, guardate un po' la storia come si ripete, usavano politiche keynesiane, Keynes era ancora vivo, c'era Roosevelt, e quindi per creare posti di lavoro, la Germania, per dimostrare di essere virtuosa, continuò a mantenere il rigore nelle politiche di bilancio e quindi ridurre l'inflazione a costo di beccarsi una disoccupazione stratosferica, tant'è che il Partito Nazionalsocialista, che nel 28 aveva avuto pochissimi voti, poi sappiamo cosa succede, diventa il partito di maggioranza relativa nella Repubblica di Weimar, perché il disoccupato vota con la pancia, non è un problema di inflazione, cari tedeschi, è un problema di disoccupazione. Studiatevi bene la vostra storia, mamma mia. Oggi Paolo Paronetto, allora scusami per l'interruzione e la digressione, andiamo avanti. Di Fiat parlo tra un attimo, anzi parliamo subito, dati sulle matricolazioni europee. Prima di tutto il titolo. Sì, il titolo ha reagito bene, ha guadagnato l'1,51% nonostante i dati sulle immatricolazioni abbiano mostrato che ancora una volta le vendite di Fiat sono sì cresciute del 4,2%, ma meno del mercato, che è salito complessivamente del 10,4% in marzo. Diciamo che sono un po' di mesi che questo più o meno si verifica, e spesso gli osservatori comunque vedono il bicchiere mezzo pieno, perché notano l'aumento delle vendite di Fiat nonostante un'assenza di nuovi modelli che ormai dura da qualche anno. Quindi il mercato ha apprezzato questi dati, il titolo Fiat è rimasto in rialzo per tutta la giornata. Sì, io ricordo che Marchionne disse: non facciamo nuovi modelli perché il mercato è in calo, adesso che il mercato si sta riprendendo però i modelli non sono pronti. Faccio notare che le immatricolazioni hanno fatto più 10%, 10,6% a marzo in Europa, e un più 8,5% nei primi 4 mesi dell'anno. L'ha comunicato la CEA, che è l'Associazione dei Costruttori Europei. Tra l'altro sono ripartite in tutti i paesi: Germania più 5,5, Francia più 8,5, Italia più 5, Spagna più 10, Gran Bretagna più 17%. La quota Fiat è calata al 5,7%, ha fatto un più 4,6%, quindi meno della media. Nei primi quattro mesi, mentre il mercato ha fatto più 8,5%, la Fiat ha fatto più 2,8%. E la quota complessiva è scesa dal 6,5% al 6,2%. Ecco perché la Fiat viene superata da BMW e diventa il settimo, e scende ad essere il settimo produttore europeo di automobili. Andiamo avanti invece con gli altri titoli: Mediobanca più 2,5%, Azimut più 2,40%, ST Microelectronics più 2,20%, Pirelli più 1,60%, Fiat più 1,5%, Mediaset più 1,20%, Intesa più 1% come Jux. Buzzi Unicem più 0,85%, ancora Campari meno 3%, Autogrill meno 2,80%, Banco Popolare meno 2%, Pop Emilia Romagna meno 1,80%, Luxottica meno 1% come World Duty Free. Diciamo che fuori dal listino c'è stata anche la vicenda Ansaldo STS. Sì, Ansaldo STS è stato uno dei titoli peggiori, ha perso il 2,77%, qui il tema sono le nomine ai vertici della controllante Finmeccanica. Diciamo che il mercato, che ormai si era preparato alla vendita, alla probabile possibile vendita di Ansaldo STS da parte di Finmeccanica, ora con l'arrivo di Mauro Moretti come amministratore delegato viene ritenuta meno probabile questa vendita, così come quella delle altre controllate di Finmeccanica. E vista la storia di Moretti, si punta su una possibile ristrutturazione delle attività del gruppo, però ovviamente nel breve periodo il mercato sconta l'affievolirsi delle speranze di vendita e quindi punisce il titolo in borsa. Allora, tra i titoli, ieri il debutto di Anima non era stato dei più esaltanti, diciamo così. Oggi com'è andata? Ieri il titolo appunto ha perso il 3,6%, oggi ha più che compensato quella perdita, ha chiuso il rialzo del 5,68%, tornando quindi sopra il prezzo di collocamento che era 4,2 euro, ha chiuso a 4,28. Allora, invece su Campari meno 3% e Autogrill meno 2,80%? No, si tratta principalmente di realizzi. Ieri grande corsa dei listini, Campari e Autogrill erano stati tra i migliori, Campari sotto i riflettori anche dopo l'acquisizione di Averna. Oggi, prima appunto della pausa pasquale, alcuni titoli che hanno corso molto, gli investitori hanno preso profitto. A Banco Popolare meno 2%, Popolare Emilia Romagna meno 1,80%, Luxottica meno 1%, l'abbiamo appena ricordato, Euroquota 1,38%. E 33, i migliori e peggiori in assoluto: Worldspace più 20%, Fidia più 5,91%, Anima più 5,68%, lo ricordavi anche tu, Cell Therapeutics più 4,71%, Compagnia della Ruota più 4,50%, Media Contact meno 8,20%, Safebag meno 5,11%, Mondo TV France meno 4,82%. Paolo, gli scambi come sono stati? Pre-pasquali o ancora diciamo normali? Diciamo che sì, c'è stato un affievolirsi dei volumi complessivi, comunque la salute è stata abbastanza vivace grazie, il tema principale è stato quello delle banche, i conti di alcune big americane oggi sono stati andati molto bene, quindi questo anche Goldman Sachs ha fatto sì che gli investitori comunque operassero sul mercato, però naturalmente diciamo che rispetto a una giornata normale il clima è stato un po' più tranquillo. Grazie a Paolo Paronetto, Radio Corriere, Sole 24 Ore. Allora, Gianni Dragoni del Sole 24 Ore, buonasera Gianni. Buonasera, ciao. Il nostro uomo sulla Litalia. Allora, la lettera c'è, perché abbiamo visto una dichiarazione del ministro Lupi, la lettera Etihad l'ha mandata ai privati. Ti risulta? L'hai vista sta lettera? Non l'ho vista, è solo Lupi pare che veda queste lettere, questi piani industriali. La lettera c'è, ma non è come si aspettavano. È una lettera che fa presenti le difficoltà incontrate, nel senso che di fronte alle condizioni che già Etihad aveva indicato e che, di cui abbiamo parlato più volte, le risposte non sono state soddisfacenti. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, è uscito nel frattempo un altro flash d'agenzia sulla vicenda Alitalia. il ministro Lupi, dopo aver confermato che è arrivata una lettera da parte di Etihad con le condizioni a cui i privati devono rispondere alla lettera, non solo alle condizioni, ha aggiunto poco fa, rispondendo alla domanda se Air France stesse rallentando l'accordo con Etihad, Lupi ha risposto: appunto, forse qualcuno sta lavorando contro l'accordo, ma noi andiamo avanti. Allora, Gianni Dragoni, è Air France che mette i paletti tra le ruote di un accordo che sembrava fatto, in cui Etihad, ossia la compagnia degli Emirati Arabi di Abu Dhabi, sarebbe entrata in all'Italia con un 50%, che non è poca cosa visto che parliamo di 500 milioni di euro, oppure sono le richieste di Etihad che rappresentano il vero ostacolo? Il vero ostacolo sono le richieste di Etihad, ne stiamo parlando. Ti sentiamo un po' poco, sentiamo il volume di Etihad. Le richieste sono le richieste di Etihad che l'ostacolo all'accordo, richieste che sono sul tavolo da tempo. Poi lo stesso Lupi più volte si è detto ottimista, ha dato delle date, dei termini, il 31 marzo entro cui dovevano succedere chissà quali sfracelli, e mi sembra che Lupi continui un po' a confondere, poi potrà il ministro esprimersi meglio, ma a confondere quelli che sono i veri fatti. E cioè che le condizioni poste da Etihad non hanno finora trovato, malgrado certe assicurazioni, però delle risposte puntuali. Sono anche condizioni molto impegnative sia per le banche e gli azionisti attuali. Non si tratta solo di rinunciare a 400 milioni di debiti verso le banche, ma anche di porre una sorta di manleva, di garanzia che certi oneri che la CAI ha del passato, ma il passato della CAI anche riguardo ai rapporti con Air One, ci sono state delle verifiche fiscali, quanto è stata pagata Air One, insomma sembra quasi che gli arabi non si fidino troppo dei conti di quello che hanno trovato in Alitalia e quindi vogliono che si traccia una linea netta tra ieri e il futuro. E poi c'è anche la questione degli esuberi, una questione delicata perché oggi ci sono dei cassi integrati in rotazione, dei contratti di solidarietà, ma Etihad vorrebbe che questi lavoratori venissero proprio messi fuori. Sì, però fammi capire una cosa, Gianni. Allora, se il tema sono i conti, lì anche Etihad deve decidersi, nel senso che ha avuto il tempo per fare quella che si chiama due diligence, e cioè andare a vedere i conti, gli asset, come sono iscritte le partecipazioni, se sono state svalutate o no, e via così. Il tempo l'ha avuto. Ha chiuso, ha chiesto anche più tempo. Allora, su questo uno dice: beh, decidetevi, se non vi fidate dei conti, arrivederci, grazie. Altra cosa, a mio avviso, invece, è se Etihad non è convinta di avere l'appoggio anche politico per alcune richieste che ha fatto molto operative. Mi riferisco al trasformare Linate, rafforzando l'aeroporto di Linate, nell'aeroporto che poi avrà un ruolo più forte nello smistare i voli anche verso Abu Dhabi. Due, nel ridimensionare Malpensa, soprattutto per il cargo, per quello che riguarda la presenza di Alitalia, e aggiungendo però la rotta Malpensa-Shanghai. Tre, nel trasformare Fiumicino come hub per Etihad per i voli verso Nord e Sud America, mentre Abu Dhabi farebbe da hub per i voli, se ho ben capito, verso l'Asia, che avrebbe anche una sua logica, diciamo così, geografica. E tre, il tema del collegamento con l'alta velocità per Fiumicino. Cioè, sono i conti o il timore che poi, abbiamo già visto la posizione del governatore Maroni, nostro ospite, che la politica non appoggi, non dia queste condizioni? Da quanto saputo, c'è tutto nel pacchetto ovviamente richiesto da Etihad, ma l'ostacolo principale, l'ostacolo maggiore, riguarda l'aspetto finanziario, i conti, però loro indicano, noi non conosciamo bene esattamente cosa, tutto quello che indicano, sappiamo che però indicano che venga fatta una linea di demarcazione, ci sono delle possibili conseguenze, ricadute negative di situazioni precedenti dentro la CAI, quindi non riguarda la vecchia Alitalia pubblica perché quella è stata, c'è già stata una discontinuità, fu fatta già la Bad Company, e quindi pongono delle condizioni, non hanno avuto una risposta dagli azionisti privati, dagli azionisti della CAI. Poi il contorno degli aeroporti da regolamentare diversamente, da fare l'alta velocità, su cui al massimo potrebbero avere degli impegni oggi, perché non è una cosa che si, il collegamento all'alta velocità certo non si farebbe in poche settimane, ma anche quello fa parte, però non è il punto fondamentale. Ultima domanda che ho per te, a questo punto quanto può aspettare l'Italia? Cioè, veniamo da un aumento di capitale recente, però sappiamo quali sono le condizioni finanziarie di Alitalia. Allora, immaginando che Alitalia attualmente, stando alle stime, perde circa 700.000 euro al giorno, ma ha un debito accumulato di circa 900 milioni di euro e rischia di bruciarsi anche l'ultimo aumento di capitale, quali sono i tempi? I tempi prevedibili sono che per la fine dell'estate, o se vogliamo andare avanti ancora un po' nell'autunno, l'Italia abbia un problema di cassa, perché l'iniezione, i 300 milioni di capitale fatta a dicembre, tra novembre e dicembre, è più o meno calcolato che possa esaurire un anno, allora l'estate è la stagione in cui entra più cassa, quindi adesso il traffico è più alto che d'inverno, l'estate, per estate si intende da aprile a fine settembre, a fine ottobre, questa è l'estate del trasporto aereo. E quindi adesso i conti magari perdono un po' meno, perché la stagione migliore è anche la cassa, però finita l'estate i problemi riemergono. E questo è la scadenza massima, se non ci saranno tensioni prima, perché l'Italia viene comunque già da una condizione difficile. Poi c'è una cosa che dimostra queste difficoltà, che il bilancio del 2013, il bilancio dell'Italia lo ha sempre approvato come consiglio di amministrazione fine febbraio o prime settimane di marzo, comunque siamo già appunto oltre la metà di aprile, il bilancio del 2013 non è ancora stato portato al consiglio di amministrazione, proprio, ho saputo, per la inconsiderazione della fase delicata delle trattative con Etihad, quindi c'è da aspettarsi che anche questo bilancio, che non è ancora stato chiuso, possa presentare dei numeri negativi anche più di quelli che ci aspettiamo. Finora la perdita nei 9 mesi era un po' meno di 300 milioni, quindi sarebbe sicuramente superiore a 300 milioni, ma potrebbe essere un bilancio con altre sorprese negative. Il ritardo fa pensare che ci siano delle notizie non buone, non positive, che il vertice dell'Italia aspettasse di vedere se chiudeva la trattativa con Etihad prima di annunciarlo. Quindi al massimo, diciamo, a settembre, diciamo, come scadenza ultima per non tornare a dover chiedere un aumento di capitale, che diventerebbe veramente un calvario questa volta. Grazie a Gianni Dragoni, adesso il traffico e poi l'ultimo tema di questa puntata, il DEF, il documento economico finanziario. Da un lato è passato al Senato, 156 sì, 92 no, dall'altro c'è forte attesa per il Consiglio dei Ministri di domani, che dovrà definire con un po' più di dettagli come taglierà l'IRPEF, quindi i famosi 80 euro per alcune fasce di reddito, e dove troverà le coperture, perché su questo qualche dubbio ancora c'è. Alle 18:18 minuti riprende Focus Economia per l'ultima parte. Allora, dicevamo del Consiglio dei Ministri di domani, che stando diciamo a quello che capiamo dovrebbe anche darci maggiori indicazioni sul taglio in busta paga. Ripeto, il taglio, no, ha spiegato molto bene il Sole 24 Ore, il beneficio arriverà soprattutto per i redditi tra i 19.000 e i 26.000 euro lordi, dopo i 28.000 euro lordi il beneficio si azzera, e le coperture, adesso ci ragioniamo, dovrebbero arrivare dalla spending review soprattutto, e 1 miliardo dalle banche. Ancora, per quello che riguarda le bozze del DEF, il bonus sarebbe quest'anno da 650 euro fino a 24.500 euro lordi, 620 è diciamo nella parte mediana. Ancora, il bonus salirà a 950 euro nel 2015, perché questa differenza, perché si spalmerà per l'intero anno, mentre adesso, se va bene, parte da maggio. il taglio dell'IRAP dal 3,9 al 3,5% dal 2015, riduzione a metà quest'anno, ma insomma, Dino Pesole del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Oggi sento basso anche Pesole, allora alziamo il volume anche del collegamento con Dino Pesole. Dunque Dino, in realtà i dubbi non sono tanto su questo, ma da un lato sulle coperture, se ho ben capito, dall'altro... e per copertura intendo anche le ipotesi avanzate oggi da vari giornali che per trovare le coperture per gli 80 euro si vadano a ridurre alcune delle spese detraibili, quelle sanitarie, gli interessi sui mutui, le polizze assicurative per i redditi sopra i 55.000 euro l'anno. E poi l'eventuale ipotesi che vi possa essere anche un bonus per gli incapienti, quelli che non pagano le tasse ma di misura minore sui 40 euro. Dino. Sì, esatto, sono questi i problemi che si stanno ponendo e a quello che sappiamo ancora la ricerca delle coperture non è per nulla definita. Questa ipotesi di intervenire con un taglio mirato, seppur mirato, di alcune detrazioni o agevolazioni sui redditi che superano i 55.000 euro è contenuta in una delle bozze, dopodiché come sempre lì c'è scritto da valutare in sede politica. Così come l'estensione del bonus totalmente o parzialmente agli incapienti. E dunque si ritorna al problema che poi è sempre il problema dei problemi, come finanziare un'operazione che comunque, al di là di come la si voglia vedere, costa 6,7 miliardi. E dunque trovare questa cifra a maggio praticamente è impresa tutt'altro che semplice. Allora si ragiona su un'ipotesi che continua a essere quella di partenza, cioè che gran parte di questo finanziamento dovrà avvenire dai tagli strutturali alla spesa. Il problema è che ancora non è stata definita la griglia, cioè come dovranno intervenire, ad esempio, in che modo i tagli sulla sanità, sulla difesa, ad esempio, sui beni e servizi, cioè i beni intermedi delle amministrazioni pubbliche, sono tutte voci che compongono gli addendi della manovra, ma non ancora sono stati dettagliatamente cifrati e soprattutto non c'è il via libera politico. E questo fa presumere che quella che si annuncia sarà un'altra serata, se non nottata, di lunghe contrattazioni in cui la ragioneria proverà a dire la sua, smontando o rimontando le ipotesi che vengono formulate, e poi in sede di Consiglio dei Ministri si farà la somma e si deciderà, fermo restando che queste misure devono essere strutturali, se no rischiamo che oltre al rinvio del pareggio di bilancio Bruxelles eccepisca anche sul fatto che non finanziamo in modo corretto misure strutturali di riduzione della pressione fiscale, quindi bisogna stare molto attenti, insomma, come sempre la coperta è molto corta. Sì, su questo però, Dino, mi sembra che dal punto di vista anche come impatto sull'opinione pubblica, forse la cosa più delicata sia la riduzione delle spese detraibili, anche perché se parliamo di redditi sopra i 55.000 euro, come dicevamo prima, beh, non è che chi guadagna 60 o 65.000 euro lordi l'anno, certo è uno stipendio che rispetto ad altri è alto, ma con i figli a carico, insomma, non stai andando a colpire redditi alti, ecco, possiamo dirla così. Certamente sì, teniamo conto che però già da almeno un paio d'anni si ragiona nei vari governi che si sono succeduti su come intervenire sulle cosiddette tax expenditures, che in termine diciamo più accessibile sono appunto le agevolazioni fiscali, che in effetti nel nostro ordinamento, per effetto di misure che si sono consolidate nel corso dei decenni, sono oltre 700. Dunque certamente lì c'è un margine per intervenire, ma sia il governo Monti che il governo Letta, e credo e spero anche il governo Renzi, dovrebbero escludere dal taglio di queste detrazioni certamente le spese che comunque servono ad incrementare il reddito dei lavoratori, cioè non si può ad esempio intervenire sulle spese per le detrazioni da lavoro o per i coniuge o quelle comunque ritenute fondamentali. Se c'è da limare si può limare, ma non sono operazioni che si possono fare con l'occhio rivolto al recupero di gettito immediatamente, quindi bisogna stare molto attenti. Io non credo che alla fine il governo Renzi si getterà a un mese dalle elezioni un ginepraio del genere che comunque andrebbe a toccare fasce importanti dell'elettorato. Quindi mi sembrerebbe di escluderlo, però comunque stiamo a vedere, perché ecco, come sempre le vigilie sono sempre. Sì, sono sempre a te. Ecco, una cosa invece più certa, mi sembra quello che è successo al Senato, che dopo aver dato il via libera al DEF, ha anche approvato a maggioranza assoluta con 170 voti a favore e 87 contrari l'autorizzazione al governo a far slittare il pareggio di bilancio al 2016. Il sì è arrivato, come facevo notare, come nota anche politica, anche dalla Lega, e devo dire che su questo lo stesso ministro Padoan ha confermato il rinvio del pareggio del bilancio strutturale al 2016. Dino, questo vuol dire che comunque il Parlamento ha dato un'indicazione netta al governo su cosa chiedere poi in Europa. Sì, questa poi è la procedura che in realtà ci siamo attribuiti da soli, perché l'Europa non ci aveva chiesto, se non sotto forma di auspicio, di inserire in Costituzione l'obbligo al pareggio di bilancio. Sì, noi l'abbiamo fatto e dunque ora va rispettato, così come va rispettata la norma prevista dal nuovo articolo 81 della Costituzione, in base alla quale, qualora il governo intraveda la necessità di deviare dal percorso di la riduzione del deficit piuttosto che del debito, lo possa fare, ma debba motivarlo in base a circostanze eccezionali e debba chiedere un voto preventivo al Parlamento, cioè un'autorizzazione al Parlamento per poter sforare questo tetto. Allora, questo è avvenuto, la maggioranza mi sembra che abbia sostanzialmente tenuto, non mi sembra francamente che si possa gridare allo scandalo se invece di fare il pareggio nel 2015 lo facciamo al 2016, considerato che nel 2015 faremo lo 0,1 di deficit strutturale. Per carità, usciamo da questa logica dello 0, perché sennò l'Europa finisce contro un muro. Quindi probabilmente non è tanto quello il punto politico è che comunque riusciamo a garantire, anche grazie ad alcuni altri indicatori che vanno bene, ad esempio l'avanzo primario che rappresenta la differenza tra entrate e uscite tolti gli interessi, che comunque è uno dei più alti dell'Europa per effetto delle manovre pesantissime che abbiamo subito nel corso degli anni. Quindi forse da questo punto di vista non credo che ci siano obiezioni a Bruxelles, quanto piuttosto vedo più critica la questione del finanziamento di questa manovra fiscale, è lì che potranno eccepire se non sono tagli veri e dunque certo strutturali. Ecco, su questo devo dire che poi è arrivata anche una risposta del vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani, che comunque è in campagna elettorale, lo dico per precisione, perché ha detto si sta facendo un pasticcio su questa vicenda, non è corretto quello che dice il ministro Padoan, noi abbiamo già autorizzato come Bruxelles il pagamento di tutti i debiti pregressi senza sforare il patto di stabilità e quindi la famosa clausola, per cui insomma su questo c'è un po' di polemica, mi sembra più che altro politica, per così, per cercare un po' di notorietà. E invece l'Associazione Nazionale Magistrati, a fronte degli annunciati tagli degli stipendi nei riguardi di alcune categorie, denuncia la gravità di un'eventuale iniziativa unilaterale del governo che, senza alcun confronto con le categorie interessate, in via d'urgenza procedesse ad una riduzione strutturale delle retribuzioni. Allora, l'Associazione Nazionale Magistrati, con il massimo rispetto, fa quello che fanno tutti i sindacati, ossia non si toccano le retribuzioni e i diritti dei magistrati e va bene, però non l'ho mai vista, diciamo, chiedere una maggiore efficienza nella magistratura, soprattutto nella giustizia civile, o vogliamo dire che la giustizia civile, anche per colpa del come vengono organizzati alcune procure, funziona benissimo? Non lo so, si può parlare anche di questo, ogni volta che si tocca i magistrati si diventa così dei pericolosi sovversivi. Grazie Dino Pesole, magari ne affronteremo come tema nelle prossime puntate. Intanto Sebastiano Barisoni, l'auguro di una buona serata, ci sentiamo domani in diretta dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.